con il vento? Non perdete questo evento! Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E così ce l'abbiamo fatta, la svolta c'è stata, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in questa congiuntura sfavorevole generale, no? Economica, politica, sociale e stagionale, almeno la primavera sembra arrivare, diciamo che tutto questo, almeno un fattore positivo ce l'abbiamo. Qui a Milano oggi c'è un sole pazzesco, ci si può abbronzare effettivamente, si sta più di 7-8 minuti al sole, ci sono 20-21 gradi, quindi immagino che se parte da Milano, dalla regione del Macro Nord, questo clima, immagino che anche poi a scendere sia tutto rose e fiori. Poi ci direte man mano telefonando se effettivamente la situazione è questa, e quindi se almeno una cosa in questo stallo generale l'abbiamo raggiunta: la primavera. Speriamo che sia definitiva almeno lei, almeno fino a quanto deve durare. Insomma, è vero che non ci sono più le mezze stagioni, mi dice la stessa trasmissione, lo stesso titolo della mia trasmissione, ma almeno la primavera sembra arrivata con molta fatica, quindi vedete, una conferma continua di questo titolo che scelsi già anni fa. Ma cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quante cose anche questa settimana da dirci, da raccontarci, dei fatti successi durante questi giorni. Il numero verde, quindi, ve lo dico dall'inizio, così voi potete chiamare da subito e non aspettare gli ultimi 5 minuti quando io comincio a correre, tutti mi dicono: ma perché vai così veloce, perché ti mangi le parole? la fretta di correre dietro e tu corri oltre. 800 24 00 24, numero verde, quindi, come tutti sapete ormai da secoli, numero gratuito, ma anche, come io vi aggiungo, ecologico, perché voi evitate il sabato di disperdere pensieri, idee, tempo, risorse altrove, le convogliate invece qui a Non ci sono più le mezze stagioni, quindi numero anche ecologico. Quali sono i fatti di questa settimana che vorreste ritornare a commentare? Quali sono le vostre opinioni sulle cose successe? Intanto ve li ricordo un quadro generale di questa settimana molto brevemente. Sapete della scomparsa di Margaret Thatcher e di questa donna che ha segnato sicuramente un'epoca fortemente, insieme a Reagan dall'altra parte negli Stati Uniti. Pensate, l'ha talmente segnata questa epoca in positivo per alcuni e molto in negativo per altri, che oggi c'è un'allerta a Londra con tutte le forze dell'ordine mobilitate, perché c'è una manifestazione contro la Thatcher adesso che poveretta è morta, e si rischiano scontri sociali, quindi ci sono tutti che sono allertati per quello che potrebbe succedere. Si riuniscono, mi sembra sì, alle 18 a Trafalgar Square si dovrebbero riunire per protestare contro la Thatcher ormai defunta. Per quanto riguarda, almeno comunque era una statista, questo glielo si riconosce. Da noi qualche difficoltà, vero, a individuarne qualcuno. Ci sono però i saggi che, sapete, ieri hanno completato il loro lavoro, incaricati da Napolitano, hanno tirato fuori varie questioni: il lavoro, il fisco, la giustizia, la riforma della legge elettorale, non proprio il dimezzamento dei parlamentari, ma insomma una buona riduzione. Poi questa corsa al Quirinale che agita moltissimo il PD, che è completamente nel caos, ma anche il PDL, diciamo, vero, che è molto teso sulla questione. Tra Bersani e Berlusconi ci sono state delle prove di dialogo, non si capisce bene come siano andate. Sicuramente Bersani ancora oggi torna a dire niente governissimo, insomma non ne vuole sapere di allearsi col PDL. Voi che ne pensate di questo possibile connubio? Combinerebbe qualcosa di buono PD e PDL insieme? 800 24 00 24. Poi naturalmente c'è il Movimento 5 Stelle, che prima ha occupato giorni fa le due Camere del Parlamento per protestare contro la mancata realizzazione delle commissioni e delle commissioni parlamentari, e poi ha avuto questo intoppo delle quirinarie, no? Ha deciso di Grillo, col suo blog, di far citare, di proporre dei nomi dagli elettori del Movimento 5 Stelle. Poi ci sono stati gli hacker, qualcuno dice no, non è piaciuto il risultato a Grillo, quindi l'ha fatta rifare. Insomma, però vedevo sulle prime pagine dei quotidiani online che, intanto vi do la buona notizia, in Siria sono stati liberati 4 giornalisti che erano stati rapiti giorni fa, quindi questa è la notizia di apertura. Ma poi pare che si sia arrivati a qualche risultato con le 10 nomi per il Quirinale da parte del Movimento 5 Stelle. Ci sono Fo, ci sono Milena Gabanelli, c'è anche Grillo stesso, Labonino, Gino Strada. Ci fosse una donna finalmente, comunque, che sia il Movimento 5 Stelle, PDL, PD, che dice tutti insieme, uno per volta, eccetera. Ci fosse almeno una donna, un cambiamento culturale, simbolico, ma anche concreto in questo paese. Poi che altro dirvi? Che in Italia ci sono 6 milioni di disoccupati in mezzo a tutto questo, e che la crisi morde le famiglie, una su 6 è povera, secondo la Banca Centrale Europea. E Invece in Francia, che pure hanno le loro difficoltà, però hanno detto definitivamente sì alle nozze gay e alle adozioni da parte delle coppie omosessuali. E anche in Italia c'è stato il presidente della Corte Costituzionale, Gallo, che ha bacchettato le Camere, ha detto: insomma, con questi diritti civili vi volete muovere o no? Le persone dello stesso sesso hanno anche loro diritto di un riconoscimento ufficiale e giuridico. 800 24 00 24. Ma volete sapere anche questa settimana cosa ci conferma? Che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Allora sappiate, il reggiseno. Il reggiseno è stato inventato per tenere su delle caratteristiche femminili, a volte più preponderanti, a volte un po' più ridotte. Comunque, insomma, dovrebbe avere una funzione pratica, no? E sapete, durante i movimenti femministi degli anni 70, che c'è sempre, ma allora erano proprio i momenti caldi, veniva bruciato, sbandierato come una libertà dalla schiavitù, no? Era simbolo di costrizione in generale. Poi dopo si è capito che il reggiseno serve, insomma, fa cascare, cioè, con gli anni, col peso, con la forza di gravità, insomma, verso il basso. Che cosa succede? Una volta acquisita questa consapevolezza, più o meno tutte le donne portano il reggiseno, che più che meno, insomma, dalla Francia dicono non serve, anzi è deleterio. Non portare il reggiseno o portarlo solo in modo saltuario non solo non fa ricadere i seni verso il basso, ma anzi aiuterebbe a tenerli su. Pensate, non c'è una sola certezza a questo mondo. Alcuni studiosi francesi di Besançon, che da 15 anni seguono 130 donne, hanno sancito che si tratta di un falso bisogno. Il professor Jean-Denis Roulon, dell'ospedale di Besançon per l'appunto, dice che è un'idea comune questa, che senza alcun sostegno i seni ricadano verso il basso. Invece dice questo professore che è inutile chiuderli così in restrizioni, anzi si tengono meglio, si tengono più tonici e molte donne soffrono anche il meno mal di schiena. Questa cosa del mal di schiena non l'ho capito, bisogna avere veramente due cose, diciamo la settima forse per avere il mal di schiena, forse il peso in avanti, non lo so. Comunque dicono che senza reggiseno i seni stanno su comunque, stanno meglio, respirano di più e non si ha neanche mal di schiena. Insomma, questo per dirvi, anche questa settimana c'è qualcosa che, insomma, ci fa perdere le certezze, ci fa capire che non ci sono più le mezze stagioni. Ma a questo punto, care ascoltatrici e cari ascoltatori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Oliviero Bea. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Caro Oliviero, tu non hai problemi di reggiseno, quindi a te interessa relativamente, no, però no. Se avrei intorno delle donne, se vuoi dirglielo e portargli su questa novella. Perché comunque sono interessato sull'evoluzione del costume. Certo. Mi interessa a me, non ho un'opinione scientifica, lo ammetto. Cioè, però sappi questa cosa, se qualche amica o qualche compagno ti chiede. Oliviero Bea, giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, conduttore televisivo e radiofonico, il lunedì su Rai 3 conduce Brontolo. A che ora Brontolo? Dalle 9 alle 10 del mattino. Che naturalmente Brontolo sei tu, che insomma hai un po' quest'aria di Brontolo. Io sono partito Zorro e quindi l'evoluzione dell'età. Sempre comunque un personaggio simpatico, sempre alla riscossa. Che cosa succede? Uno che non ci sta, ai pompieri, stanno arrivando i pompieri. Allora, sì, ma io sono in un teatro di posa, la vita è un teatro di posa. Quindi. Possiamo dirlo, soprattutto anche la politica italiana è un teatro di posa, diciamolo, no? Le camere. Bagaglino lì però. Bagaglino però. Il bagaglino, ecco. Nel caso sì, più che altro bagaglino, ne conosciamo un po' il tenore, anche se quando è bagaglino vero ci può anche piacere, quando invece riguarda la politica. Senti, a proposito di bagaglino, tu hai fatto questa verifica? A proposito del? A proposito, cioè, hai provato, come diceva Bersani, a chiamare la Telecom, che lui dice che non ha fatto la telefonata da Roma per bloccare. Ma guarda, lo ritengo un dettaglio, perché tutto quello che viene fuori è sufficiente, sono sintomi sufficienti per evidenziare la malattia, che è un po' la malattia del paese naturalmente, che si riflette nelle malattie specifiche, non so, tra Bersani e Renzi da un lato, Alfano e la manifestazione di oggi del PDL con Alfano che dice: sappiamo che gli italiani vogliono un governo forte. Ho capito, questo lo so pure io, lo sanno pure sì, i sì, ci sono varie manifestazioni, non so se il PD contro la povertà, che mi chiedo vabbè, del resto hai citato quella di Trafalgar Square, anti-Thatcher alla memoria, perché Ken Loach ha detto, insomma, sì, va bene la Thatcher. Facciamo il funerale privato, ha detto Ken Loach, il regista. Sì, Ken Loach ha detto, privatizziamolo. No, privatizziamolo, nel senso che lei aveva privatizzato tanto. Sì, appunto, privatizziamo anche qualcosa, poi ha parlato con Pinochet, insomma, ha riconosciuto regimi che non andavano riconosciuti, insomma, Ken Loach è andato giù pesante, però... Questa è libertà di espressione. Senti, scusami, Oliviero, io dico, se vogliamo stare nella realtà, se vogliamo stare alle indicazioni che si danno, una volta prendere le parole per quelle che sono, vogliamo provare a chiamarla sta Telecom? Perché io mi è venuto il dubbio. Non so se riusciamo con Benedetta Acri, ai telefoni incandescenti, oltre a prendere tutti questi ascoltatori, centinaia e centinaia che già ci sono, riusciamo a fare questa telefonata alla Telecom? Ci abbiamo prima la viabilità? Riusciamo? Forse aspetta che... Sì, io sono qua. Tu non ti muovere, Oliviero, Non muovo, No, mi dicono che c'è prima la viabilità, perché sai che la Telecom, cioè, poi bisogna aspettare quei minuti, diciamo. Si muove la viabilità. Non ci sono più le mezze stagioni. Stavo guardando nel frattempo, Roberto Giordano sempre con voi naturalmente, i tantissimi interventi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, su il Quirinale, poi sul dissidio tra Bersani e Renzi, ma forse, abbiamo sempre Oliviero Bea come opinionista estemporaneo, oggi abbiamo la Telecom in linea? Sì, salve, buongiorno, mi dica. Buongiorno, con chi parlo? Con Gianni, signora, Gianni. Mi dica pure. Gianni, senta... Le risulta che ci sia stata una telefonata da Roma verso Matteo Renzi questa settimana? Perché sa che Bersani ha detto, io non ho fatto nessuna telefonata per bloccare Renzi, chiedete alla Telecom, allora ho pensato di chiamarvi. Sì, probabilmente c'è, signora, questo non glielo so dire con esattezza. Come mai le interessa sapere questa cosa? Perché sono una giornalista, Roberta Giordano di Radio 24, e siccome Bersani ha detto pubblicamente, chiamate la Telecom per verificare, io non ho fatto nessuna telefonata, Come faccio a avere la certezza che ci sia stata o non ci sia stata, Gianni, secondo lei? Signora, deve chiamare la nostra direzione generale, non il 187. Cioè, devo chiamare la direzione generale, ma è facile raggiungerla? Eh sì, lo trova, però oggi non trova nessuno, dovrà chiamare lunedì, signora. Quindi posso verificare solo da lunedì, quindi bisogna aspettare altri giorni per avere una risposta concreta su questo fatto. Esattamente, signora. Gianni, ma lei come, secondo lei, come sua così percezione... Un attimo solo, signora, mi perdoni un secondo. Sì, sì. Sì, prego. Scusi, mi diceva? Dico, secondo una sua percezione, è possibile che sia partita questa telefonata da Bersani, da Roma verso Renzi, Firenze? Perché no, mi scusi? Potrebbe essere. Certo, potrebbe essere, certo. Qui bisognerà vedere i tabulati, non si può stare sulle ipotesi, no? Certo, certo. I tabulati non sono visibili a tutti. Certo, immagino. Certo, certo. Vediamo. Ha detto che si chiama? Roberta Giordano. Ok, signora Giordano, è stato un piacere sentirla. È stato un piacere reciproco, caro Gianni, grazie della disponibilità. Grazie a lei, salve. Grazie, buon lavoro. Insomma, abbiamo la Telecom, io ho la coscienza a posto a questo punto, io la Telecom l'ho chiamata, quando si chiede di fare una verifica, io la faccio, certo, bisogna chiamare la direzione a questo punto, Oliviero, Bea, che pensi? Penso che è stato intanto un piacere anche per me, perché fra l'altro mi hai riportato indietro negli anni a Radio Zorro, alle mie telefonate in diretta alle persone. Poi il problema non è tanto che abbia telefonato qualcuno a qualcun altro, ma che cosa è stato detto in questa telefonata, come è ovvio. E il Gianni è un eccellente comprimario nella commedia di cui stiamo parlando. È vero, parlando. Molto. Devo dire che ha risposto con molto garbo e ha fatto anche le sue ipotesi. Adesso se qualcuno lo sente lo cambiano alle prossime elezioni. Sì, poi magari lo richiamiamo, Gianni, se lo ritroviamo, ma insomma, ogni volta cambiano questi operatori, diventa difficilissimo ritrovare lo stesso. Comunque, Oliviero, prima di ritornare sul dissidio Bersani-Renzi, che non si capisce c'è la scissione, non c'è la scissione, vediamo... non c'è per ora, quanto pare, perché Renzi dice che non ha nessuna intenzione di fondare un altro partito, però prima dice, insomma, sono abbastanza contrastanti i messaggi, sì. Per esempio, ti leggo velocissimamente, prima di sentire Dino da Grosseto, Pasquale da Napoli e gli altri, e che cosa vedevo su Facebook, vediamo, eccolo qua, a proposito di questo dissidio, insomma, chi si comporta scorrettamente nei confronti dell'altro, Bersani nei confronti di Renzi o Renzi nei confronti di Bersani? Marco dice, Bersani è scemo, molto tranchant. Santina, Bersani se ne deve andare, o è troppo buono o è troppo fesso, boh, il partito lo stanno spaccando. Stefano, sicuro il secondo, Renzi ha torto, finché c'è un leader si rispetta, ma nel PD i ribaltoni sono abituali, anche per questo non saranno mai al governo. Verrebbe da dire Nanni Moretti, continuiamo così, facciamoci del settimane. Michele Bersani non ha capito che da tempo è stato scaricato dal partito. Massimo scrive: Renzi fino ad ora ha avuto la pazienza di Giobbe. Bersani deve ringraziare Napolitano se ha avuto tutto questo spazio e comprensione. Corrado: Renzi è solo un ambizioso figlio della politica immagine. Carlo dice: Bersani è una persona per bene, invece di cacciarlo ai tempi che Cosino, Renzi immagino, si inventò la Leopolda con relativa rottamazione, lo ha trattenuto. Cosino è un piccolo minicchio che ha giocato la carta dei bari e si è creato una visione e visibilità per interesse personale. Marco: Bersani è persona per bene, Matteo scalpita per fare il candidato premier, il tutto è condito di consiglieri sciocchi e di ripicche fra ex democristiani. Dora scrive: Renzi un arrivista con la faccia da arrivista. Antonio: trattasi di un grave attacco di poltronite contagiosa. Insomma, un po' reciproca la questione. Rosaria scrive: le scorrettezze sono reciproche, ciò che è mortificante per loro per noi elettori è la mancanza di argomenti veri. Paolo: la sete di potere, altrimenti se amassero l'Italia un accordo lo troverebbero. Potrebbero avere tutti torti. Rosi: è un bel rebus, dice, tra chi ha torto tra Bersani e Renzi. Giuseppe: nessuno fa gli interessi del paese né dei cittadini. Elena: Bersani non vuole dare spazio a Renzi, mi sembra una lite tra ragazzi. Angela: sia quel che sia, pensino al paese non alla poltrona. Ce ne sono moltissimi altri. Che ti sembra da questi commenti? Sia qualcosa di vero in quasi tutto, ma è tutto parziale. Dovendo scegliere, sceglierei una Rosaria o un Paolo, perché fanno un discorso che riguarda il bene del paese. Acustica. Di sicuro stanno avvenendo nel PD, per una serie di motivi che sarebbe abbastanza lungo spiegare, ma che forse sono anche abbastanza noti, sta avvenendo una sorta di implosione democristiana o post-democristiana, con correnti, subcorrenti, spiragli, venti e contrapposizioni. Ricordo che sono 20 anni che noi ci teniamo la contrapposizione D'Alema-Veltroni, e adesso prima Bersani era un prestanome di D'Alema, adesso in qualche modo si è affrancato. Insomma, quando io, per riassumere, quando io sento parlare qualcuno, non solo del PD, ma di tutta la politica italiana, del bene del paese, sono come quello che dice: quando sento parlare di cultura metto male la pistola. Purtroppo era Goebbels, quindi non vorrei fare paragoni di questo genere, ma insomma sono molto preoccupato, mettiamola così. La Lega intanto non si scide, sai che ci sono stati tafferugli, espulsioni, li buttiamo fuori, li espelliamo, no, diceva Maroni. Bossi, che sembrava volesse fare un partito, un movimento per conto suo, dice: Bossi non sarò io a romperla. Non romperà lui la Lega, a proposito, cioè, c'è grande fermento nella politica italiana, proprio perché siamo in crisi, pensano insomma alle loro scissioni. Io comincerei a dare la voce alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il numero verde è 800 24 00 24. Dino da Grosseto. Buonasera, buonasera, grazie Dino. Di avermi chiamato. Grazie a te di aver chiamato, che poi ti abbiamo richiamato, che poi tu poi dopo hai risposto. Grazie. Volevo soltanto prendere la parola su una cosa molto semplice. Sì. Cioè il ricordo di Margaret Thatcher. Sì. Di una donna che in un programma dove si dice che non ci sono più le mezze stagioni, credo che potesse rappresentare bene questo slogan. Nel senso che ha rotto una continuità o cosa? No, perché lei ha fatto capire a tutto il mondo quanto fosse importante in quel momento storico, ma io credo in generale, la diseguaglianza, quindi la diversità, ma non per affermare una disuguaglianza, ma anzi per affermare i valori di un'uguaglianza. Il problema fondamentale mi sembra un po' un ossimoro, se ho capito bene. Dino, scusami, ma il tuo quindi è un giudizio positivo o negativo? Non ho capito. Lei mi sembra no, che il per mio è un giudizio positivo. Perché per i detrattori invece ha aumentato le disuguaglianze, dice il prodotto di la situazione in cui ci troviamo adesso a livello più o meno mondiale, almeno in Occidente, arriva da lì, secondo i detrattori, tu invece dici il contrario. Oppure che ha bocciato un egualitarismo così un po' qualunquista e ha detto: no, non siamo tutti uguali, questo vuoi dire? Perfetto, il problema è che un giorno nacque una persona abbastanza singolare che si svegliò una mattina e disse: siamo tutti uguali. In realtà avrebbe cambiato il mondo se avesse detto: abbiamo tutti gli stessi diritti e tutti gli stessi doveri, ma siamo diversi. Non so se era questo proprio il principio di base che muoveva Margaret Thatcher. Comunque Dino, volevi brevemente andare invece alla politica italiana? Esatto, volevo dire che per avere un premier forte l'Italia ha bisogno di un cambio istituzionale. Se non cambiamo le nostre istituzioni nel senso di semplificarle, di asciugarle, avremo sempre un continuo di questa politica che non ha alternanza. E il fatto che i 10 saggi abbiano detto che serve ancora e comunque un sistema misto tra maggioritario e proporzionale secondo me dimostra che questi non sono dei saggi, ma forse sono più dei seggi. Grazie Dino, ti ringrazio, salutaci Grosseto. E prima di sentire Pasquale da Napoli, brevemente, Oliviero Bea, che ne pensi della Taci, del tuo pensiero? No? Sai che si sono scatenati in questi giorni commenti positivi e negativi sulla sua azione politica e sulla sua eredità. Ma la Thatcher ha un merito, quello di aver fatto da punto di riferimento chiaro a una visione del mondo, che secondo me è una visione del mondo sbagliata però, e quindi tutto quello che stiamo pagando adesso non nasce oggi o ieri o l'altro ieri, nasce da un fondamentalismo economico a cui la Thatcher ha dato una bella mano, ecco, mettiamola così. Quindi un capitalismo un po' efferato, dice, un po'. Ma senz'altro sì, sono tutti pronti a tuonare contro il cosiddetto fondamentalismo islamico, cosa ci faranno i musulmani, ma il fondamentalismo economico che ha devastato i rapporti umani sotto qualunque cielo, beh, di questo non se ne parla. Io direi adesso invece spostiamoci su un altro piano, caro Oliviero Bea, perché c'è il nostro Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, che mi dice che è riuscito a creare il collegamento interplanetario, che sai che è sempre difficile con questi satellitari, vediamo se ci riusciamo, sì. Riflessioni da Marte. Questo da Marte ho preferito utilizzare questa settimana invece del solito telescopio per scrutare le magnifiche sorti e progressive dello stivaletto italico. Ho preferito utilizzare una modalità altamente tecnologica e anche innovativamente politica: lo streaming. Non è che si vedesse benissimo, a dire la verità, anche perché sembra uno streaming un po' a fasi alterne, un po' va, un po' è meglio non usarlo, e quindi da quel che si vede e non si vede mi chiedo: cosa sarà che rende le donne così pregnamente presenti nei discorsi istituzional maschili dell'8 marzo e così invece perdutamente assenti per 364 giorni all'anno, per esempio come grandi elettrici o come sagge e altresì sulle segge che contano? Oh, cosa sarà? Cosa sarà? E cosa sarà cosa che faceva dire sino a poco tempo fa a Renzi Matteo D'Alema è un rottamabile, con me andrà a casa? E replicare a D'Alema: Massimo, Renzi è un malato di rampantismo, per poi vederli in questi giorni praticamente a braccetto. Oh, cosa sarà? Cosa sarà? E cosa sarà cosa che fa iscrivere due giorni fa Barca Fabrizio al PD, lui ministro della coesione territoriale del lungamente dimissionario governo Monti, assicurerà forse la coesione nazionale allo sconquassato PD? E ancora cosa sarà che spinge Berlusconi Silvio a volersi alleare con i vituperati comunisti e addirittura a fare i nomi per il colle di D'Alema e di Bersani? E inoltre cosa sarà che ha fatto cambiare idea ai grillini che dagli iniziali 2.500 euro al mese che volevano prendere hanno poi preferito prenderne 6.000? E cosa sarà cosa che ha permesso sarà? Alla Spagna, cosa ben sarà? Più disastrata della penisola italica, di pagare 37 milioni di euro di debito dello Stato alle imprese in 5 mesi, mentre in Italia il pagamento dei debiti procede tra mille tentennamenti a passo di lombrico? Oh, cosa sarà? E cosa sarà infine, forse per lo stesso motivo in varie forme che collega tutto il resto, cosa sarà che ha fatto spendere in anni di fasulle bonifiche nell'area di Bagnoli a Napoli 107 milioni di euro per poi scoprire ora che i veleni dell'acciaieria e dell'Eternit erano in realtà solo stati rimescolati come la polenta taragna e spinti sempre più giù nella terra e nel mare in maniera irreversibile? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re? Che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà? E riprendiamo con i piedi per terra, c'è sempre Oliviero Bea con noi, tra pochissimo una pausa, a questo punto come sempre, ma c'è Pasquale da Napoli all'800 24 0024. Pasquale. Buongiorno. Buongiorno Pasquale, ma dovresti proprio neutralizzare la radio completamente, sì? Sì, ok. Allora, noto che l'ultimo collegamento da Marte è un po' più vario, un po' meno banale. Oramai Berlusconi sta uscendo di scena, vi impone anche a voi di essere un po' più... Perché di solito è un po' banale la marziana, diciamo. Ma no, nel senso che io da anni io non ho mai votato Berlusconi. Cerco di convincere tutti gli amici, tutti quelli di sinistra che... Secondo me sto fatto di dargli addosso su queste cose personali, non fa altro che dargli alimento, comunque. Perché la marziana dà sempre addosso a Berlusconi, non mi risulta, ma comunque mi collegherò e cercherò di capire. Ma anche in maniera un po' banalotta, insomma, comunque in ogni caso. Pasquale, in ogni caso, mi fa piacere che tu sia sempre presente, evidentemente hai sentito molte puntate, non ci sono problemi. Sento molto Radio 24, anche se amavo molto più Radio Radicale, quella mia mi ha annoiato. Comunque volevo dire solo questo, che... Sì. Mi meraviglia molto il fatto che Grillo abbia escluso dalla rossa dei nomi Emma Bonino. È una cosa incomprensibile. No, guarda, in questi 10 sì, è vero che lui ha detto, insomma, non sembra che abbia tutta questa passione per Emma Bonino, però nelle quirinarie adesso si dovrebbero avere risultati attendibili, secondo Grillo c'è nell'elenco, nei 10, anche Emma Bonino. Una grande fautrice io di Emma Bonino. Non so se è banale questo che sono fautrice. Sì. Anche perché mi dica. Il 93, con il referendum che hanno proposto i radicali, che è stato vinto in maniera incredibile. Con il finanziamento pubblico ai partiti. Hanno sempre spinto i radicali, anche con pochissimo. La cosa straordinaria di queste persone è che, avendo pochissima risonanza, sono riusciti a fare delle cose sempre grandissime, come per esempio questo grande voto contro il finanziamento dei partiti, che poi è stato immediatamente mortificato, come al solito, da rimborso elettorale, da successivi provvedimenti normativi di questo il grande inciucio che Grillo, giustamente. Però ecco, mi meraviglia che Grillo, che ha fatto spesso anche nei suoi spettacoli, io l'ho seguito molto anche negli articoli che leggevo ogni tanto su dei mensili, eccetera, che diceva cose molto fini anche a livello, anche sul profilo economico, alle battaglie radicali, e poi mi meravigliava molto, insomma, che l'avesse scusa. Emma Bonino è il personaggio politico italiano più stimato al mondo, conosce 5 lingue, mi sembra una cosa veramente ridicola che non... Allora, se sia più stimata al mondo, non lo so, io la stimo moltissimo e spero che sia lei una volta tanto, finalmente, perché mi piace lei come figura politica, umana, e naturalmente come donna, voglio una donna e basta. E Pasquale, tra l'altro, visto che ci sei in linea, prima di lasciarci, ti dico quali sono in ordine alfabetico i nomi usciti dalle quirinarie. Ci sei, Pasquale? Sì. Mi ascolti? Tutto orecchi? Bene. Bonino, Caselli, Fo, Gabanelli, Grillo, Imposimato, Prodi, Rodotà, Strada, Zagrebelsky. Ecco, sono questi 10, almeno ci sono due donne, Bonino e Gabanelli, tutte e due molto valide. Forse la Bonino ha più esperienza, diciamo, politica nazionale e internazionale. Pasquale, ti ringrazio. Alla prossima banalità, allora. Va bene? Arrivederci. Grazie. A risentirci. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci qua, pochi istanti dopo, Roberta Giordano sempre con voi. Stavo leggendo i messaggi che arrivano, gli sms che io, sapete, in diretta in genere non leggo, poi me li leggo per conto mio, se no non riuscirei, il tempo è già poco, però me li sto leggendo, alcuni molto spiritosi. Qualcuno mi dice, visto che hai parlato del cambiamento e non ci sono più le mezze stagioni, tu il reggiseno lo metti, non lo metti? Se hai parlato del reggiseno, diciamo che io sono una runner, quindi per forza sarebbe meglio, vero? Spesso non l'ho portato, ma insomma, diciamo che in genere può essere molto pratico, me la cavo anche senza, se vogliamo dire. C'è sempre Oliviero Bea, naturalmente, come opinionista estemporaneo, poi c'è Massimo da Bergamo, Fabio da Como, all'800240024. Oliviero, invece su questa guarda, ti sottopongo questa frase che ha detto Massimo D'Alema, che mi ha lasciata un po' così. Allora, ha detto, a proposito del conflitto di interessi, no, che rincorre Berlusconi da anni, ma che non arriva mai, insomma, a una soluzione. D'Alema ha detto, Berlusconi, continuare a martellare Berlusconi con questa leggina e cercare di distruggere con questa leggina è un'idea infantile, no? Dice, pensare, può essere, per carità. Poi dice, non credo che se noi avessimo fatto questa leggina il centrosinistra avrebbe preso più voti. Ma allora cos'è, una questione di prendere più o meno voti perché la gente dice, ah, che bravi, avete fatto questa cosa, o è perché serve al paese? Non ho capito cosa voleva dire. Mi pare una domanda retorica, certo, con risposta incorporata. Ma tu sei intelligente, Oliviero. La seconda che hai detto, naturalmente. Ognuno fa la propria corsa, anche nel Gran Premio del Quirinale ci sono i vari cavalli, è ippica pura, cioè travestita politica, ma insomma detto, in un momento in cui in Italia fra le tante crisi c'è anche quella dell'Ippica, lo ricordo. Sì, è vero, è anche grave. Sì, certo. Sì, è stato un settore che poi significa tante cose in termini di occupazione e anche di, diciamo, di costume, direi. D'Alema fa la sua partita. A sinistra, da un pezzo, sono disponibili ad ammettere che Hitler era un simpatico in bianchino, se questo servisse a avere voti da destra, e naturalmente la stessa operazione la fanno dall'altra parte. Questo è un paese che ancora non si è messo d'accordo sul fatto se sia legittimissimo essere sia di destra che di sinistra, perché non esiste una destra se non c'è una sinistra, e non esiste una sinistra se non c'è una destra. Chiaro, contrapesi. Ovvio, ma certo, no, se noi facessimo scomparire, l'ho scritto tante volte nei miei libri, dappertutto, ho detto dove era possibile, mi guardano come fossi un marziano, uno dei tuoi, per capirci, sperando di non hanno gli altri con queste considerazioni. Ecco, visto che tu sei permalosa, ma che uno scherzo, insomma. No, non sono permalosa, no, io intendevo dire all'ascoltatore, la prossima banalità la mia, quella che dirò io. No, l'ho capito, si scherza, via. E allora dicevo, il problema è che se noi facessimo scomparire con il genio della lampada Aladino la destra piuttosto che la sinistra, a sua volta la sinistra, se rimasta in campo, si spaccherebbe in una destra della sinistra, in una sinistra della sinistra, la stessa cosa al contrario con la destra. Il vero problema è la qualità, sì. La qualità della destra, c'è una destra che è stata ammazzata da un uomo d'affari, citiamolo così elegantemente, così non saremmo accusati di con tutto il nostro bunga bunga, è stata ammazzata in termini di cultura politica da un uomo d'affari e da tutto il contesto aziendal politico, e una sinistra che non esiste, non sa chi è, da un sacco di tempo. Questo è il punto, non c'è politica in Italia, e per forza un'invettiva come quella di Grillo poi si trasforma in 8 milioni di voti o quanti sono, si poi dopo nessuno ne può più. Poi Oliviero, mi racconti anche che cosa pensi di Grillo, di cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle, di come sta procedendo. Però abbiamo ancora moltissime ascoltatrici e ascoltatori, 800 24 00 24, poi ritorno se c'è tempo anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni a proposito di candidati al Quirinale. Vorrei sapere poi anche da Oliviero se è un candidato. C'è Massimo da Bergamo. Ciao Massimo. Ciao Roberta. Concordo con le valutazioni dallo spazio tue e del signor Bea. Sono abbastanza preoccupato da questa situazione di stallo e più che altro da come non si riesce a capire che la gente è proprio messa in questo momento male, male, male. Massimo, dimmi una cosa, tu che... Sì. Che in questo momento appunto di stallo, come hai detto, che soluzione troveresti? Cioè, ce li vedresti per esempio il PD col PDL, anche se dicevo che oggi, vediamo se lo ritrovo, ma comunque me lo ricordo a memoria, che Bersani dice è escluso il governissimo, non può funzionare. Tu che cosa pensi? Roberta, io vedrei una possibilità del genere vivendo in uno stato, in una nazione con una cultura e con una sensibilità delle persone abbastanza normale o anche se non alta. In questo momento in Italia c'è solamente il pensiero dell'arrivismo e del cercare di pensare ai propri interessi. Finché non si ritrovano certi valori, non esiste il pensare che una persona, il PD o il PDL si possano unire, perché sono sempre solamente posizionati per i propri interessi. Sono tutte balle quelle che ci raccontano. Abbiamo avuto l'esempio del terremoto all'Aquila, quando il signor Berlusconi prometteva case, strumenti agricoli agli agricoltori, che avrebbe modificato tutto, e c'è quella povera gente che è ancora in una situazione di emergenza e di disagio. Sono tutti uguali, Massimo. La gente non si muove. Massimo, dimmi solo il tuo candidato o candidata a premier, scusami, a capo dello Stato, non premier, il presidente di così, a capo dello Stato. Guarda, ci credi che non ti viene in mente nessuno? Non ho proprio idea L'idea di Emma Bonino, che possa essere una persona con la testa sulle spalle, o anche una persona al di fuori della politica, ma poi vedi che quando entrano in politica, cavolo, anche gli esterni si contaminano. Poi piano piano Massimo, è incredibile. Ti ringrazio molto, Massimo. Ti aspetto il prossimo sabato, naturalmente, in ascolto dalle 14 alle 15. E vi informo anche che negli ultimi sondaggi, fatto questo da Renato Mannheimer, Grillo va giù nei sondaggi, sale il PD, ma il centrodestra ora è avanti, quindi è più in alto di tutti. Oliviero, volevi fare qualche commento? Ma sì, che anche se è il tuo candidato o candidata capo sì, dello Stato. Ti dico il mio candidato, sì. Ti dico cosa penso della Bonino e ti dico anche al volo, naturalmente con tutta la, diciamo così, tutta la tara della sbrigatività, certo, quale potrebbe essere un modo di approcciare, di affrontare la situazione. Cioè, politica. C'è una soluzione in tasca, tu sentiamo Oliviero bene. Ma c'ho una doppia soluzione. Tirala fuori. La doppia velocità. Sì. In questo momento un accordo per fare, visto che è un bollettino bellico, noi siamo davvero nel terzo dopoguerra e la terza guerra la stiamo vivendo economica, quindi noi dobbiamo uscire da questa pace incivile come si è uscita dalla guerra civile 60 anni fa, 65 anni fa, quello che è. E bene, in una situazione come questa ci vuole un terreno comune con un garante che possa essere un Presidente della Repubblica, appunto condiviso e di qualità, un terreno comune come brevissimo periodo per rifare una legge elettorale, quindi un governissimo per riandare a votare, ma poi con un'idea di futuro che chiarita da parte delle forze politiche. E Berlusconi ci vuole, deve dire che cosa pensa che possa essere l'Italia fra un anno, fra cinque, fra dieci, la stessa cosa Bersani e Renzi, perché di politica l'hanno detto i tuoi ascoltatori, mi pare una Rosaria, un Paolo, un Gianni, chi fosse, hanno detto che la vera preoccupazione è la vuotezza di programmi e di idee. Noi non sappiamo che idea si ha per l'Italia da parte praticamente di nessuno. Vuoi sapere il mio candidato? Sì. Tra i nomi di Grillo, credo che per esperienza politica, ma non partitica in senso stretto, e diciamo per saggezza di... No, no, non puoi farmi questo, Oliviero. Pronto? Oliviero Vera, diciamo, è un automatismo che a un certo punto il suo telefono debba cedere, lo chiami dopo un anno, lo chiami dopo tre anni, succede la stessa cosa, e sì che me l'ha assicurato. E poi proprio sul suo candidato a capo dello Stato non può lasciarci così in suspense, ma evidentemente questa è una strategia radiofonica, un colpo di scena, quindi Lisa da Milano, ci sentiamo tra pochissimo dopo la viabilità, va bene? Ok. Non ci sono più le mezze stagioni. Riprendiamoci subito, 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Sempre Oliviero Bea, opinionista estemporaneo di oggi, giornalista, scrittore, saggista, con Brontolo su Rai 3 il lunedì mattina. Tra l'altro molti ascoltatori e ascoltatrici mi chiedono: ma ce l'hai Twitter? Mi sto, diciamo, equipaggiando, mi fa un po' fatica, ma prima o poi ci arrivo. Lisa da Milano. Ciao. Ciao Lisa. Io stavo giusto aspettando l'intervento di Bea sul Quirinale. Ha voluto fare questo coup de teatro, ma mi sembra che sia già in linea. Ne è vero, Oliviero? Già in linea. Ecco, ma quando tu indichi un Presidente della Repubblica, il minimo che ti può capitare in questo ti paese. Ti hanno sabotato. Che cada lì. Questa non è la Telecom, non so chi sia stato. Dopo proviamo a richiamare se anche questo. Lisa, prego. Volevi sapere quindi prima Ero curiosa di sapere il suo candidato. Quindi stai un attimo in attesa, sii breve e tranchant, Oliviero. Sì, Stefano Rodotà, perché è politico senza essere partitico, perché è una persona seria, perché è saggio sufficientemente per gestire intanto un periodo così difficile di transizione come quello fino al prossimo governo. Non è una donna, ma nessuno è perfetto. Già, sì, mi piace Stefano Rodotà, ma io voglio una donna, non c'è niente da fare. Lisa. Io invece sono d'accordo con lui, nel senso io vorrei una donna, ma non vedo né la Bonino né la Gabanelli. Non ti piacciono né la Bonino né la Gabanelli? No, mi piacciono molto, le seguo molto, sì. Però io sono molto d'accordo, io seguo Radio 24, 24 ore al giorno. Sono molto d'accordo con il pensiero di Giuseppe Cruciani della Zanzara. Bonino e Gabanelli sarebbero due ottime Presidenti della Repubblica, problema che dovrebbero essere più imparziali. Ma la Bonino mi sembra abbastanza imparziale, tutto sommato. Poi bisogna anche sapere cosa si intende per imparzialità. Il sesso degli angeli non ce l'ha nessuno, un sesso ce l'hanno tutti, Elisa, questo è sicuro. Certo, poi uno certo, si può sforzare di essere un po' più super partes. Però il capo del governo dovrebbe tendenzialmente essere più in centro, più che a sinistra, più che a destra. E poi lei comunque è molto influenzata dall'avere lavorato tanti anni con Pannella. Io, dopo aver sentito la discussione che c'è stata tra Marcella e Cruciani. No, mi sembra abbastanza, mi sembra abbastanza smarcata, guarda, te lo devo dire, Bonino, da Pannella, poi rimane naturalmente un legame di lunga storia insieme e di affetto. Lisa, ti ringrazio, che il tempo corre moltissimo, perché adesso, prima di Fabio Jacopo, se riusciamo a farlo, se no chiederò umilmente perdono, dobbiamo correre verso il nostro prossimo appuntamento. Col nostro Don Severino, caro Don Severino. Ciao, cosa Roberta, ci racconti questa settimana? Ciao. Hai detto bene all'inizio che siamo in primavera, infatti ti ringrazio di aver almeno tu detto in trasmissione quello che è successo, diciamo, in Francia, perché i mezzi di comunicazione in Italia non è che hanno approfondito la notizia. Ah, però la cosa, sì. Sì, ma non con molta enfasi. L'altra cosa molto importante, spero che continui, non so se hai notato, dopo il fatto in Francia e dopo le dichiarazioni della Consulta, dal Vaticano c'è silenzio. Almeno questa volta. No, ma ho sentito il presidente del Consiglio Pontificio, se non sbaglio, sì, insomma, che ha detto che è una roba anch'io. Contro natura, eccetera, eccetera. L'ho cose. Sentito anch'io, però se tu ricordi prima non solo c'era questo, ma anche a livello proprio. La Paratzinger interveniva ufficialmente. Esatto. Sì, quindi spero che continui, diciamo, un po' questa linea, perché davanti alla situazione politica, davanti alla crisi, anche se posso sembrare sciocco, ma l'uguaglianza anche dei diritti su etero e gay porterebbe gran beneficio in Italia. Sono anche assolutamente dal punto di vista economico. Sono assolutamente d'accordo. Grazie Don Severino. Grazie, ciao. E mentre corro, c'è il nostro prossimo appuntamento, naturalmente, con la nostra Valeria Della Valle, è caduta oggi, è un giorno di cadute generali, poi richiamiamo la Telecom. Fabio Da Como, riesce a essere sintetico, proprio ratto come la folgore, Fabio? Sì, buongiorno a voi. Grazie. Un commento rapidissimo, sì. Io sono purtroppo uno dei tanti disoccupati dopo 25 anni di lavoro in Italia. Quanti anni hai? Sei giovane? Ne ho 44, forse per colpa della crisi, sì, ma anche per colpa di un datore di lavoro purtroppo incapace. Chiudo la parentesi. Niente, la cosa molto importante che voglio dire è questa: secondo me il PD sta perdendo l'occasione, perché Renzi, bene o male, è comunque un uovo che avanza, come si suol dire, e forse Bersani avrebbe dovuto capire che era un momento di cambiamento da prendere al volo. Fabio, perdonami, ti ringrazio infinitamente, ci sentiamo sabato prossimo, diamo diritto a Fabio di riintervenire prossimo sabato. Grazie Fabio, scusami che adesso dobbiamo recuperare la nostra Valeria Della Valle, che ha praticamente 34 secondi, linguista della Sapienza di Roma, per dirci questa melina che tutti dicono, non continuiamo melina, non facciamo melina. Melina, ecco, non fare melina, si usa molto in questi giorni, vuol dire tattica dilatoria, e viene dal gioco della pallacanestra, della pallanuoto, del calcio, cioè un gioco ostruzionistico fatto per tenere il possesso della palla, per mantenere un risultato favorevole. In due secondi, il tutto viene da un'espressione bolognese, è il Zugdlamleina, chiedo perdono ai bolognesi per la cattiva pronuncia, in cui vuol dire in bolognese indugiare, cincischiare, cingillarsi. Aggiungo solo che secondo alcuni studiosi l'origine di questa espressione sarebbe oscena, e quindi non la ripeterò. Secondo altri invece era anticamente un gioco consistente innocentemente nel passarsi un cappello lanciandolo sopra la testa del suo proprietario. Pensiamo al gioco, che più bello. Ecco, vedremo se il gioco che si fa in questi giorni è osceno o innocente. Grazie cara Valeria Della Valle. Grazie. E adesso, mentre corro verso Oliviero Bea, vi dico anche, diciamo, ha vinto di nuovo la Bonino sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, ma mentre con le votazioni di giorni fa era stata proprio dominante, adesso ci sono anche ascoltatori che votano Prodi, Zagrebeschi, Boccassini, Rodotà, Salvatore Settis, Martino Violante, La Cancellieri, Giancarlo Casellis, Borrelli, eccetera eccetera. Poi guarderemo con più attenzione la prossima volta. Oliviero Bea, ti volevo lasciare con questo interruttore della felicità che sembra sia stato creato da scienziati americani e coreani da mettere nel cervello, potrebbe essere una soluzione in questi 22 secondi che ci restano, anzi 12, in questa depressione generale? Non avrà pienza con una proteina con la quale recentemente scoperta, con la quale a quanto pare si cancellerebbe la memoria, quindi dimenticheremmo la nostra infelicità. A me pare che siamo tutti matti. Diciamo che noi ci dimentichiamo di telenge già senza bisogno di proteine, di pillole, eccetera. Ed è molto grave, dovremmo ricordare. Mangiamo un po' di fosforo e teniamo la memoria presente. Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori, grazie a Oliviero Bea, a presto Oliviero, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.